Adesso so perché la mia felicità che ha raggiunto un apice di immensità continua ed è per questo che io penso ancora quando tu eri lì davanti a me col tuo sorriso altro che pianto imbridito soltanto poi di colpo lacrime di felicità su entrambi la tranquillità di un giorno che non mi aspettavo io. Papino. Proprio no. Papino. Ma il tuo contatto di ribelle, mamma mia che sensazione, non ne avevo mai provato una così sorprendente. Il profumo del tuo odore sto sonnando, sto impazzendo, forse un film travolgente. Io dovrò insegnarti a vivere e più dentro cresce sempre di più. Adesso tu il tempo sai e siamo più grandi ormai è una ruota che gira e non finisce ma continua ed è per questo che io penso ancora quando tu eri lì davanti a me col tuo sorriso altro che pianto imbridito soltanto poi di colpo lacrime di felicità su entrambi la tranquillità di un giorno che non mi aspettavo io. Papino. Proprio no. Papino. Ma il contatto di ribelle, mamma mia che sensazione, non ne avevo mai provato una così sorprendente. Il profumo del tuo odore sto sognando, sto impazzendo, forse un film travolgente. Io dovrò insegnarti a vivere e più dentro crescerai sempre di più. Adesso tu ti vedo tanto bene, ma il contatto di ribelle, mamma mia che sensazione, non ne avevo mai provato una così sorprendente. Il profumo del tuo odore sto sognando, sto impazzendo, forse un film travolgente. Io dovrò insegnarti a vivere e più bello crescerai sempre di più. Adesso tu